Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Ultimo giro, ultimo mese di trasmissioni qui al Soundcheck di Radio 24 dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo, buonasera ai signori Francesco Tromba e Silvia Barba, o meglio Silvia Barba e Francesco Tromba. Ciao. Ciao. Sì, dicevamo, ultimo giro di corsa per noi, abbiamo 4 weekend da affrontare e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Intanto nella seconda parte di oggi apprezzerete il talento, l'arte e la bellezza di una bravissima vocalist italiana già ospite del Soundcheck nella passata stagione. Vi stiamo parlando di Greta Panettieri, che ha anche scritto gran parte del materiale di Fun Slow Ride, l'ultimo album che abbiamo prodotto, del quale vi abbiamo già parlato, ma ne parleremo anche con lei subito dopo l'informazione degli eventi. Noi ci avviciniamo anche al momento del Soundchecker Play Music Award, quindi dal prossimo sabato inizieremo a ripassare tutti i brani che hanno caratterizzato maggiormente questa edizione del Soundcheck, per poi arrivare alla fine di giugno e assegnare i nostri premi, dei premi virtuali, perché non abbiamo né un premio in denaro, né una coppa, né una targa da spedire negli Stati Uniti, ma soltanto è un modo personale per celebrare gli artisti che ci sono piaciuti di più. Io ho piantato 120 semi di peperoncini, se esce qualcosa magari glieli possiamo spedire agli artisti, a Snarky Papi e agli altri. Ma staremo a vedere, ne parleremo a partire dal prossimo sabato. Invece oggi, in attesa di Greta Panettieri, vorrei presentare materiale fresco appena sfornato e protagonista di una ultima recentissima operazione discografica. È un signore che va in giro sotto il nome di Music Soul Child, e quindi stiamo parlando di un uomo chiamato Talib Johnson. Oh, Talib Johnson, che ha scelto molti anni fa di firmare la sua musica col nome di Music Soul Child. E quindi di chi parliamo, Tromba? Lo sapete perché ha scelto questo nome? Perché in realtà lui alle feste spesso metteva i dischi, cantava, ogni tanto faceva il vocalist, e però nessuno si ricordava il suo nome. Ogni volta che lo incontravano poi per strada gli dicevano il ragazzo della musica. Quindi ha deciso di chiamarsi Music, così era direttamente collegato. Music Soul Child, perché questa era la musica che lui ha sempre suonato, il soul, e c'è molto soul anche in questa recentissima produzione discografica. Sì, c'è molto soul. Lui è cresciuto con il soul degli anni 70, lo ascoltava fin da quando era più giovane, e è un album, come abbiamo detto, lo abbiamo definito un po' patinato. Lui è un soul romantico, anche un po', come dire, appunto patinato, un po' fighetto, si può dire? L'hai detto? L'ho detto, mi dispiace dirlo. L'hai detto. Arriva Music Soul Child al Soundcheck di Radio 24 con Heart Away. Si intitola Life on Earth, il nuovo album di Music Soul Child che stiamo presentando con Silvia Barba e Francesco Tromba qui al Soundcheck di Radio 24. Sono uscite negli Stati Uniti diverse recensioni che parlano di questo progetto, però discordanti. Sì, diciamo, ho letto una recensione completamente negativa in cui appunto si dice che in realtà i beat, il sound è abbastanza vecchio, però in effetti diciamo si rifà un pochettino al sound del soul degli anni 70, e un'altra invece completamente positiva in cui si dice appunto che lui esplora nuovi territori che finora non aveva mai esplorato. Diciamo che la verità secondo me sta nel mezzo, è un disco diciamo ascoltabile, alcune tracce sono molto piacevoli. Dai, sì, è un disco piacevole, un disco che può accompagnarci magari durante i viaggi, visto che è arrivata la bella stagione, possiamo utilizzare Music Soul Child per fare le nostre scampagnate e andare a trascorrere il weekend al mare. Però noi abbiamo scelto i brani che naturalmente erano e sono più vicini alla nostra filosofia di musica, al nostro concept. Allora eccolo qui, Music Soul Child con Rhapsody, il brano si intitola Far Gone. Soundcheck, il suono della musica. Marcus Strickland, Twilight al soundcheck di Radio 24, album recente, si intitola Nil Novi, ha scelto un titolo in latino il nostro Marcus Strickland, ovvero Niente di Nuovo, però a me il disco è piaciuto tanto perché ci trovo delle cose nuovissime. Ecco, però se lo ha chiamato Nil Novi un motivo ci sarà. Che significa, scusa? Perché secondo mi guardi... me non ci sono cose proprio tanto tanto tanto belle e originali. Non sono saltata dalla sedia la prima volta che l'ho ascoltato. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con te. E questo è il bello del nostro programma. Vero. Per me è uno dei dischi più belli dell'anno. Pubblicati. Dell'anno non lo so, deve ancora finire l'anno, te lo dirò. Anche perché io ho prodotto un disco, quindi devo anche parlare bene dei miei figlioli. Però il disco di Marcus Strickland lo trovo veramente interessante. Suona molto bene, c'è del lavoro dietro nella composizione, negli arrangiamenti. I musicisti coinvolti sono di prima grandezza e ci sono anche dei brani che presentarli in radio mi danno una certa soddisfazione. No, io sono d'accordo con te fino a un certo punto, posso dirlo. Bene, so, adesso già dalla quando, copertina si è presentato un po' più. Quando andremo in pubblicità e ci fermeremo, ci graffieremo, va no, bene? No, per la musica mai. Sentiamo invece cosa ne pensa il tromba. Bah, io penso che, allora, intanto vabbè, è un bel disco, si fa ascoltare, è molto piacevole. È diplomatico, doveva si vede, dirlo, no, si vede che ha lavorato con Minoli, dai. No, alcuni pezzi sono molto belli, poi vabbè, alla ritmica Chris Dave, Pino Palladino si riconoscono subito, anche Glasper in alcuni pezzi alle tastiere, però diciamo che secondo me in alcuni punti è un po' troppo simile ai lavori, ad esempio appunto di Glasper e Derivati. Beh, ormai è quella, no? Sì, la strada è quella, hanno aperto una strada con D'Angelo e Glasper e adesso i musicisti, soprattutto questi della Revive Music in collaborazione con la Blue Note, si rifanno un po' a quel tipo di suono. Però sta suonando tutto in quel modo, un po' troppo simile secondo me. Però solo noi suoniamo in Italia questo sound. Questo è vero, però lui lo ha dichiarato Nil Novi, onesto. Nil Novi, va bene, allora ce l'avete con me. Per convincervi invece vorrei farvi ascoltare un altro brano tratto da Nil Novi di Marcus Strickland con il suo sax tenore e anche qui incontra la voce bella, educata di Jim Baylor. Il brano si intitola Talking Loud. Soundcheck. Il suono della musica. E sono approdati negli Stati Uniti Badge and Talk a Lot, una produzione italiana, Badge and Talk a Lot, che poi ci riporta a quella famosa frase di Robert De Niro negli Untouchable 6, tutto chiacchiere e distintivo. Brano dal titolo Light Me Up, sonorità funk anni 70 ma con visione contemporanea, lo dicevo, per questa band italiana che è approdata negli Stati Uniti. Sì, è la produzione gestita da Gilberto Caleffi, che appunto ho scoperto essere un italiano che vive fra gli Stati Uniti, le Barbados e ogni tanto torna in Italia, un personaggio abbastanza fuori diciamo dagli schemi. Ho visto anche un video sempre dei Badge and Talk a Lot che si intitola Money, in cui c'è una sorta di giventi di musicisti, ci sono Madonna, i Daft Punk con il loro casco, Jay-Z, anche tanti altri musicisti che guardano i video dei presidenti degli Stati Uniti, di Bush e di Obama, che si scatenano in danze eccezionali, anche diciamo fuori completamente dall'idea che abbiamo noi dell'istituzionalità di un presidente degli Stati Uniti. E allora complimenti a Badge and Talk a Lot, e visto che stiamo parlando di album italiani ce n'è uno recentissimo, il debutto per una cantante interprete italo-canadese, si chiama Sarah Jane Ceccarelli, credo viva a Roma, però naturalmente il suo album si rivolge a un pubblico sicuramente internazionale. Beh sì, lei nasce a Gubbio nel 1981, però essendo italo-canadese lei dichiara per sua fortuna evidentemente le influenze della musica nordamericana hanno fatto in lei una cantante appunto contemporanea. Studia moltissimo jazz e oltre a ringraziare spesso la sua insegnante di riferimento che è Maria Pia De Vito, che salutiamo tutti, nostre amiche. Si perfeziona amiche. Anche con Cristina Zavalloni, insomma fa una serie di corsi e insegna attualmente anche canto, quindi da allieva è diventata insegnante e quindi ha una sua bella preparazione alle spalle e realizza così il suo album di debutto. Esatto, giusto? Molto particolare, molto interessante. Ecco, il brano che vi facciamo ascoltare è il primo singolo, si intitola Rescue Yourself, in attesa quindi di accogliere Greta Panettieri, che sarà la protagonista della seconda parte del soundcheck, sempre qui su Radio 24, subito dopo l'informazione. Soundcheck. Il suono della musica. Aspettavamo il suo arrivo e infatti è arrivata subito dopo l'informazione di Radio 24, sempre qui dal Groovemaster Studio con Gegè Telesforo che vi sta parlando, Francesco Tromba, Silvia Barba e la splendida Greta Panettieri. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Hai notato che ho fatto una pausa di riflessione, ma anche perché ti trovo sempre in forma, Greta, che meraviglia. Grazie, Gegè, un piacere. Sì, hai visto Silvia come si fa? Come? No, lo dico per te, perché questa donna si mantiene bene perché fa sport e è vegetariana e se la canta dalla mattina alla sera. Vegetariana, questa è interessante. E sì. Mangia tanto peperoncino. Tanto peperoncino, esatto. Vedi il Tromba che è informatissimo su tutto quello che ti riguarda. Ho una memoria, perché ne avevamo parlato in precedenza di peperoncini calabresi e altro. Allora Greta, in questo periodo sei impegnatissima anche con la televisione, non so se sta continuando la tua avventura sulla 7 il venerdì, ti presenti, canti il tuo repertorio preferito accompagnata da amici musicisti. Com'è il tuo rapporto con la televisione? Ma guarda, è un rapporto molto tranquillo in realtà, perché come dici tu, io arrivo lì, canto e me ne vado fondamentalmente, per cui è proprio molto semplice, non dico una parola ma canto e basta, e quindi diciamo l'impatto è stato forte, ma inizio a piano piano abituarmi, insomma. Ecco, tu hai trascorso tanti anni a New York, praticamente hai iniziato la tua attività di cantante, musicista e compositrice in Italia, poi hai capito che dovevi confrontarti in una realtà dove la competizione è al massimo del livello. Adesso sei tornata in Italia, senti la necessità di tornare a New York ogni tanto? Che cosa ti manca di New York e che cosa non vuoi lasciare del nostro paese invece? Ma di New York mi manca tantissimo, esatto, il confronto non solo con i musicisti, proprio con la vita, perché New York ti mette a confronto con le parti più nascoste di te a tanti livelli, e quindi quella è una cosa che mi manca moltissimo di New York. Dell'Italia, quello che invece mi mancava dell'Italia lo sto veramente rivivendo, quindi anche proprio la bellezza della natura, degli amici, e in realtà anche qui c'è tanto da fare, per cui poi alla fine se uno si rimbocca le maniche non è il da farsi che manca. Beh, la domanda è perché sei tornato, cioè avevi un fidanzato, qualcosa? Il perché è scritto nella graphic novel che parla della mia vita. No, in realtà la decisione non è stata così semplice e neanche troppo voluta. Io sarei rimasta negli Stati Uniti, però mi sono trovata in una proprio condizione di vita di impossibilità. O rimanevo lì illegalmente, che forse avrei dovuto fare, oppure tornavo. E quindi sono tornata e poi da lì ho incontrato persone e sono rimasta. Sì, sono successe tante cose e infatti anche il nostro incontro è stato abbastanza fortunato. Io sono molto contento di averti conosciuta, di aver collaborato e di collaborare ancora con te. E infatti l'ultima marachella che abbiamo fatto insieme è proprio per il progetto Fans Low Ride, per il quale hai scritto la maggior parte dei testi e ti sei anche divertita a interpretare forse la composizione più complicata da un punto di vista melodico, armonico, una composizione scritta dal giovane Pasquale Strizzi, che ringrazio anche perché con lui abbiamo lavorato sugli arrangiamenti di altri brani, e direi di far ascoltare agli amici che cosa hai fatto con questo brano che si intitola Who Am I, chi sono io, che riporta un po' al concept generale di Fans Low Ride, che è una bella riflessione sulla vita e sul futuro. Greta Panettieri, ospite del soundcheck con Who Am I da Fans Low Ride. Soundcheck, il suono della musica. Sì, sì, bisogna essere molto precisi quando si danno informazioni. Avrete riconosciuto il tema di Brava, brano portato al successo ormai tanti anni fa dalla bravissima Mina, qui nella versione skat di Greta Panettieri, da uno degli ultimi lavori, uno degli ultimi album per questa formidabile vocalist autrice italiana, nostra ospite al soundcheck. Composizione di Bruno Canfora, Brava, la voce di Greta Panettieri. Che ne pensi, Silvia? Molto bello, però io ho una curiosità personale che è sapere in quanti ti hanno detto: Mina, ma come ti viene in mente di fare un disco su... Guarda, quasi tutti, e devo dire che forse mentendomi, però poi è stato anche ben voluto come disco e ben visto, per cui diciamo che la nostra, tra virgolette, forse ingenuità, ma più che ingenuità, proprio l'approcciarsi con semplicità a un tal repertorio, poi alla fine abbia portato fortuna e sia comunque stato ben accettato, insomma. È un repertorio che tu... hai studiato, hai ammirato, hai, insomma, da molto tempo, immagino, a casa da piccolina forse ascoltavi queste cose, oppure no? È arrivato in realtà più tardi. No, è arrivato più tardi. Sì, sì, sì, sì, io sono cresciuta a Frank Zappa e cose di questo genere. Ovviamente poi ci sono alcune canzoni che sono sempre state, no, le canzoni dell'infanzia, tra cui Se telefonando, che io avevo già riproposto nel mio primo disco che avevo fatto negli Stati Uniti addirittura, per cui ero riuscita comunque a mettere un po' di questo repertorio già precedentemente. E poi, insomma, con gli anni, no, si impara ad apprezzare anche il proprio background. Ecco, e la cosa che io invece apprezzo da sempre della nostra Greta, a parte l'aspetto fisico che in qualche modo mi ispira, ecco, ma la cosa che ho sempre apprezzato di Greta da vocalist e da cantante è proprio la versatilità. Si sente che ti piace la musica, ti piace tutta, e probabilmente questa palestra che hai vissuto per tanti anni a New York ti ha dato poi la possibilità di poterti cimentare in repertori molto diversi e affrontarli sempre in maniera professionale. Ma che cosa ti piacerebbe cantare? Qual è la cosa che proprio ti fa impazzire? Perché tu hai cantato di tutto, dalla musica brasiliana, hai anche una bellissima pronuncia in portoghese brasiliano, jazz, contemporary jazz, musica classica, pop, R&B, ma chi sei tu? Who am I? I'm sleepless before the night. Ma è complessa questa cosa. Diciamo che cerco di essere comunque sempre quello che faccio nel momento in cui lo faccio. E non ti so dare una risposta precisa, proprio perché la cosa bella è riuscire ad appassionarsi in ogni momento a qualsiasi cosa si affronta, quindi cerco di fare tutto quello che faccio al 200% a prescindere da quel che è, insomma. Io ero interessato alla differenza tra la televisione e la radio, perché l'anno precedente mi sembra che tu fossi a Radio 2, sì. Quindi volevo capire un po' qual era la tua sensazione tra la musica in televisione e la musica in radio. È molto diversa la cosa, anche perché, ecco, io non ho un'esperienza televisiva così grande e non ho la possibilità di esprimermi così come in radio. Io adoro la radio, sicuramente è tutta un'altra cosa, tu sei qui in questa nicchietta e parli e è come leggere un libro, no? Essere in radio, molto è lasciato proprio all'immaginazione. La televisione, diciamo, questa cosa te la proprio cancella completamente. Inoltre, ecco, io faccio la sigla di un programma, per cui ci sono autori che mi dicono bene o male quello che devo o non devo fare, ho 2 minuti, quindi diciamo che l'espressività è strizzata in un momento e tu te lo giochi al meglio che puoi, però diciamo che il 100% di te forse è rimasto a casa, però insomma piano piano vedremo di capire meglio. Sì, per me è sempre scioccante verificare le scalette dei programmi televisivi quando c'è la musica a disposizione, gli artisti o le orchestre hanno 1:30, 2 minuti. Invece quando facevamo un programma in televisione noi ormai più di 20 anni fa, che ne so, Miles Davis suonava 12 minuti, Pat Metheny 15, James Brown un'intera un'intera puntata. Ma sono cose del passato, invece vediamo oggi alla partecipazione di Greta Panettieri qui al Soundcheck di Radio 24. Direi allora, cara Greta, di chiudere un po' questo questa analisi degli anni 60 con un altro successo di quel periodo, un brano intitolato Se telefonando, credo che sia della fine degli anni 60 o primi anni 70. No, fine anni 60. Fine anni 60, brano scritto da Ennio Morricone e da Maurizio Costanzo, famosissimo, si intitola Se telefonando, ma questo è l'arrangiamento realizzato per Greta Panettieri. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Wind is blowing and it carries my memory. I have flown away. A New Joy, brano che praticamente ha dato il via alla nostra collaborazione, musica scritta da chi vi sta parlando, è un testo bellissimo scritto dalla nostra Greta Panettieri, tra l'altro brano che abbiamo dedicato alla nostra amica Daniela D'Ercole, bravissima cantante pugliese scomparsa diversi anni fa a New York per un incidente stradale. E la cosa ci colpì molto, stavamo lavorando proprio per la produzione dell'album New Joy e alla fine con Greta decidemmo di dedicare questa canzone a Daniela e mia cara Greta, tutte le volte che la sento mi si stringe il cuore. Sì, anche a me. Io avevo una domanda appunto perché abbiamo ascoltato questa canzone dove tu hai scritto un testo, anche per Fans Low Ride abbiamo detto che sei coinvolta come autrice. Il processo di scrittura di un testo per quanto ti riguarda è molto lungo, sei molto meticolosa oppure vivi su un'immediatezza, su un intuito, su qualcosa che rende il tutto molto breve nei tempi? Lui ti manda una musica, una melodia e tu ci scrivi un testo sopra. Sì, ovviamente ci sono diverse fasi. Diciamo che quella in cui mi trovo meglio o comunque il metodo che piano piano mi sono costruita è quello istintuale proprio, quindi cercare di scrivere anche parole che insieme non abbiano senso. È solo che vedo che in questo modo invece esce già un testo completo e poi in un secondo momento magari andare a fare delle limature proprio per il suono, anche perché poi, esatto, da cantante cerco di fare attenzione anche che le parole che uso siano facilmente cantabili a seconda se ho già una melodia di dove siamo e di come ci troviamo, insomma. Confermi che scrivere in inglese sia più facile che scrivere in italiano? Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, io... quanti testi hai scritto per me? Una decina forse? Forse sì. Forse sì. Allora il lavoro, tanto anche per rispondere a Silvia, è io insomma tiro giù la melodia, tutta la parte musicale e poi chiamo Greta e le dico: Greta, ho scritto una nuova canzone, te la faccio sentire e le do anche la mia visione generale, no? Il senso, che senso ha per me questa melodia e da dove parte l'ispirazione. La cosa bella di Greta è che è di una velocità impressionante. Ti capisci al volo. Mi capisci al volo e poi mi manda un messaggio sempre: che bella questa canzone, sono già emozionata. Ecco. E due giorni dopo mi presenta la prima bozza di testo che poi naturalmente correggiamo perché magari anche la parte melodica viene modificata e poi c'è un lavoro proprio di... un lavoro fatto in casa, a livello artigianale, da famiglia. Esatto. Allora, procediamo invece con un'altra canzone che ci sta dando grandi soddisfazioni. Tra l'altro, Greta, lo sai, fra pochissimo Fans Low Ride sarà pubblicato negli Stati Uniti per una delle etichette più importanti in questo momento, che è Rope Dope, quindi con distribuzione americana, Sud America, Australia, Canada e in Asia. Speriamo che questa canzone faccia il suo percorso. Intanto abbiamo un bel vettore che è la voce di Alan Hampton che l'ha interpretata. Quando te la fece sentire per la prima volta, tu mi dicesti: ma sai che a me non dispiaceva la tua versione, perché naturalmente Silvia e Francesco tutti i provini li ho dovuti realizzare io delle mie composizioni. Ci mancherebbe. Poi ce li ho ancora sul computer. Certamente poi uno si abitua alla voce dell'interprete definitivo e Alan Hampton non è niente male. Niente male, infatti. Però ecco, devo dire che c'è sempre il fascino della originalità, no? Poi dello scrittore, della persona persona che ha questa l'idea iniziale, però ovviamente la versione è venuta meravigliosa, quindi siamo soddisfattissimi, direi. Soddisfatti e contenti di questa collaborazione. Si intitola Next di Telesforo, Hampton Panettieri. Come andare a Sanremo qui, Next al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Greta's Bakery, Tell Me Why, brano scritto da Greta Panettieri e da Andrea San Martino, che negli Stati Uniti era famoso con il nomignolo di Rocky Salento. E possiamo anche spiegarvi perché. Andrea San Martino, eccellente compositore, arrangiatore, bravissimo pianista, che collabora con Greta nella musica ma anche nella vita ormai da diverso tempo. Quando era a New York aveva un po' di problemi con il suo nome, perché gli americani, quando sentivano Andrea, ridevano, perché Andrea è un nome da donna, no? E alla fine pensò bene di cambiare il suo nome da Andrea San Martino in Rocky Salento, che in qualche modo dava dei cenni, dei riferimenti geografici e anche un po' più di virilità al suo essere musicista. Comunque questa è Greta's Bakery, la band di Greta Panettieri, nostra ospite, che credo in questo momento sia impegnata proprio sulla scrittura di nuove composizioni per un nuovo album. Sì, nuovo album in arrivo, molto felice, c'è tante novità. Tante novità. Una novità però è stata anche quella di capire che le cose dovevi farle in prima persona, e anche per colpa mia so che sei diventata un'artista indipendente. Esatto. Viva l'indipendenza, perché ecco, questa è la cosa più bella del mondo: decidere di fare una cosa e farla senza dover chiedere permesso. Allora, io ti volevo chiedere, essendo stata in America, avendo lavorato anche con grandissimi artisti americani, ho letto gli apprezzamenti di Terry Lynn Carrington, e lavorando comunque anche con band italiane, qual è la differenza principale nell'approccio? Cioè, cercando di essere il più possibile oggettiva, l'approccio il italiano e quello americano? Ma sì, sai, la Coca-Cola. l'approccio è effettivamente molto differente. Appunto, diciamo che l'americano è più semplice dal punto di vista proprio di approccio umano, quindi anche il musicista, benché sia stratosferico e veramente puoi avere a che fare con persone incredibili che ti trattano come un vero fratello, amico, comunque come una persona alla pari. Diciamo che questa è la differenza. Non si danno delle arie. Sono molto aperti, sono curiosi, sono contenti di condividere veramente un momento insieme a te. E diciamo che questa cosa già ti cambia anche, no, la tua però resa artistica e anche umana, insomma. E devo dire, senza voler lasciare scorrere le acque nel nostro fiumiciattolo, che il mio caro amico Gegè ha questa gran dote, tant'è che mi ha accolto. Si è formato in America, fondamentalmente con gli americani. Lo sanno tutti che sono un afroamericano di Foggia, no? Esatto, vedi Ricci. Invece cosa ti piace della scena contemporanea? Cosa ascolti e se trovi ispirazione da artisti specifici che ogni tanto vai a cercare, visto che sei molto attiva, molto prolifica, fai un disco ogni poco tempo. Sì. Come fai? Ma guarda, la scena contemporanea è molto interessante, c'è tantissima roba. Ti dico, la cosa che mi ha colpito di più quest'anno, però non è una cosa nuova, o quantomeno il disco è nuovo, ma sono rimasta veramente folgorata, dirò una banalità, dal disco di David Bowie, che peraltro stavo ascoltando, ecco, venendo qui, perché diciamo che un po' il jazz, un po' tutta la musica, purtroppo, secondo me, sta risentendo molto dell'estetica, del fare una cosa nuova per forza, del fare una cosa bella per forza, il che, aspetta, non voglio dire questa cosa con come si dice, nessun giudizio negativo o da maestrina, però ecco, nel disco di Bowie lì ho trovato una umanità talmente incredibile, con una profondità, con una veramente tutta l'arte possibile a uso umano, e questa cosa mi ha sconvolto e mi ha insegnato tantissimo. Noi ti ringraziamo per la partecipazione e intanto vi ricordo che domani siamo sempre qui su Radio 24 a partire dalle 19:15. Mia cara Greta, noi ci vedremo sicuramente quest'estate in giro, perché qualche concerto scapperà sicuramente. Seguiremo insieme la pubblicazione di Fans Low Ride negli Stati Uniti e chissà che non riusciamo a farci finalmente una gita a New York insieme. Magari, guarda, ci conto. Te li immagini tutte e due a New York, tromba, loro che vanno in giro per concerti, locali e localacci? See you tomorrow, JJ. Bye bye. Grazie a Silvia Barba e a Francesco Tromba, vi lascio con Available for Wedding, e questa è un'altra delle nostre malefatte. Greta Panettieri al soundcheck, a tutti voi buona serata e buona musica.